E se non parli di merce, no, giuro tappi all'orecchio, no, non senso, soldi veloci, vanno e poi vengono, i vecchi Gucci, Prada e Ferragamo in centro, aspiro gas, 5 grammi, fumo un backwoods, fratelli in carcere, giuro saranno fuori presto e non mi fermo a fare soldi, fiducia ma stai attento, sto fumando un albero di pesco, guardie mi stanno appresso, in cucina con i contanti e sono più sereno. Crudo a cotta, gialla pure verde. Sta nevicando a Roma e non siamo a dicembre. Puoi chiamarmi Tony Boss, non vengo se non conviene. Chiamami Boss, io giuro non ci muoviamo se non conviene. No, no. Un sacco di stronzi da eliminare, Watson è elementare, brillo all'orecchio e collo da quando ero alle elementari, da quando ero in prima media, fumo queste canne d'erba, prendo sti soldi e li spendo, sti soldi non sono mia, per favore non rimandarmi dal prefetto al colloquio, tanto appena esco fumo il doppio, sono un piccolo bastardo sporco, roba di marca soltanto addosso, guarda che pendente al collo, mi fa avere male al collo. Fottere la gang, vorresti farci il malocchio, specchio, riflesso, ti faccio tornare il doppio, 500 abracadabra diventano il doppio, da un netto a 130 grammi il mio socio la trasforma.